guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti all'ascolto di Guardie o Ladri, la trasmissione che ogni sabato ormai da oltre un anno e mezzo vi accompagna nel mondo della legalità e dell'illegalità. Questa settimana affronteremo un tema particolarmente caldo, il tema del pentitismo. Lo facciamo perché? Innanzitutto perché sono continui gli allarmi lanciati dai magistrati che vedono un po' prosciugarsi una piscina nella quale avevano nuotato con favore negli anni scorsi, vale a dire quelle dei collaboratori di giustizia che, conoscendo dal di dentro il mondo della criminalità, sono forse i principali chiavistelli, le principali leve per combattere la criminalità stessa. E poi perché è la settimana dei morti ammazzati, tra i quali lo zio di un pentito di Camorra a Casal di Principe, ed è stato un chiaro segnale quell'omicidio nei confronti di tutti coloro i quali avrebbero voluto o vorrebbero collaborare con la giustizia. Insomma, il pentitismo, i cui numeri si assottigliano sempre di più nonostante il 2007 sia stato un anno che ha segnato una certa inversione di tendenza, continua ad essere un tema caldissimo, ed è per questo che Guardie o Ladri comincia una inchiesta a puntate, saranno tre dedicate proprio a questo tema. Avremo prima un avvocato, poi avremo un magistrato ed infine avremo un politico con i loro racconti e con le storie di tre pentiti di 'Ndrangheta. Affronteremo appunto insieme questo viaggio. Perché la 'Ndrangheta? Beh, perché la 'Ndrangheta è la mafia più impenetrabile, e avere dei collaboratori di giustizia in questo mondo vuol dire effettivamente riuscire a scardinare quanto più possibile questa organizzazione al nord, al centro e al sud. Bene, allora abbiamo con noi l'avvocato Claudia Conidi, che è già stata nostra ospite in passate trasmissioni di Guardie o Ladri. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei. Allora, in questo viaggio nel mondo del pentitismo e nel mondo del pentitismo segnatamente calabrese, quindi di chi aveva a che fare con la 'Ndrangheta, abbiamo deciso di partire da lei proprio per affrontare la parte, diciamo così, di chi difende questi pentiti, perché ricordiamo, l'avvocato Conidi è uno tra gli avvocati più esperti e più quotati proprio nella difesa di questi pentiti. Allora le chiedo, perché innanzitutto c'è un clima così ostile che si è instaurato nella società e forse anche nella politica nei confronti di questi pentiti? Io ritengo perché nel passato questi soggetti sono stati indicati come personaggi scomodi, ovviamente, perché con la rivoluzione che c'è stata, con l'ingresso di queste persone nell'ambito dei procedimenti penali, lo stesso processo penale ha subito uno scossone nel momento in cui si è occupato di criminalità organizzata. Quindi l'impatto è stato talmente negativo, a volte sia per il successo di alcuni procedimenti e anche per l'insuccesso di altri, che ha fatto ricadere ovviamente su questa categoria una sorta di considerazione negativa. Ecco. Certo, certo. Ecco, io le chiedo questo, ma è vero come taluno dice, e che poi sentiremo nel corso di queste puntate ci confermerà un pentito uscito dal programma di protezione, che va tutto bene fino a che si tratta di fare rivelazioni dall'interno sulle cosche, quindi all'interno della criminalità organizzata. Poi però, quando qualcuno tocca il livello politico, tutto diventa più difficile. Secondo lei questo è vero? Ma io ritengo di sì. Livello politico, mi faccia capire bene, perché io non ho seguito i discorsi, certo, precedenti. Assolutamente. Il livello politico vuol dire che quando un pentito comincia a fare delle rivelazioni sul ruolo avuto da un politico di rango nazionale piuttosto che di rango locale, allora le indagini diventano più difficili, gli riscontri più difficili, l'opera della magistratura più complessa, e aumenta la scetticità e magari, perché no, anche qualche campagna mediatica contro queste persone. Certamente, perché la prova lì dove si deve provare poi la collusione del politico diventa più, si incancrenisce, perché diventa più difficile, il terreno diventa ruvido, per cui noi sappiamo bene che la credibilità del pentito viene scalfita voglio dire, nel momento in cui non si trova un riscontro, una prova oggettiva, tangibile, ovviamente la parte più debole. Quindi, incrinandosi il sistema probatorio, si incrina un po' tutta la situazione, perché è difficile, ecco, in campo processuale poi provare determinate situazioni di collusione tra il sistema politico e il sistema malavitoso, perché ci sono mille modi per dimostrare invece il contrario. Ecco. Veniamo alla denuncia del procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, il quale ha lanciato circa un anno fa, ma poi ha ripreso il concetto, appunto, l'allarme sulla mancanza di pentiti all'interno delle organizzazioni criminali, e nessuno quanto appunto chi ne faceva parte può descrivere, può permettere di debellare o quantomeno scalfire il potere della criminalità. E allora le chiedo oggi che cos'è che non va dal punto di vista, diciamo così, legale, delle leggi che ci sono in Italia per rendere agevole il percorso di una persona che a un certo punto decide di andare incontro alla giustizia e quindi lasciare un percorso criminale che aveva alle spalle. Guardi, sono diversi i problemi che un collaboratore incontra nel momento in cui decide di collaborare con la giustizia. Cerchiamo di elencarli, avvocato. Sì, il primo tra tutti è un problema di natura proprio pratica, di gestione pratica del pentito, il quale si trova veramente in condizioni disagiate da un punto di vista economico. Almeno questa è la mia esperienza personale, seguo diverse persone che si lamentano proprio di non poter sostenere un livello di vivibilità decoroso con quello che è l'assegno alimentare, di tipo alimentare che versa lo Stato. Credo che anche l'inserimento sociale comunque sia un punto abbastanza carente, o mi sbaglio? Sicuramente la risocializzazione resta una mera parola, ecco, al vento, in quanto le opportunità per chi ha nuovamente appunto scelto una vita diversa e quindi ha optato anche per una situazione di vita diversa, le opportunità sono scarsissime, sia per problemi di sicurezza, perché queste persone comunque si portano sulle spalle un fardello passato notevole, per cui hanno diverse difficoltà nell'approccio sociale, in quanto temono di poter rincontrare persone con cui hanno avuto a che fare. Certo. Non vengono ripulite da tutte quelle scorie che ovviamente di cui si sono impregnati nel passato, per cui molti viaggiano con il cosiddetto documento di copertura, che però non serve per poter entrare nel mondo del lavoro, e quindi ci sono tantissime remore poi operative per poter rientrare nel circuito organico della società. Certo. Assolutamente. Ecco, ora lei questo non può saperlo, ma noi nel corso di queste puntate abbiamo sentito e sentiremo dei pentiti, dei collaboratori di giustizia, chiamiamoli come vogliamo, che sono usciti fuori dal programma di protezione. E le faccio una domanda secca: ma è vero, come sostengono taluni magistrati, esperti, uomini appartenenti alle forze dell'ordine, che se queste persone escono dal programma di protezione, beh, un motivo ci sarà? E lasciando intendere con questa frase che probabilmente sono delle persone o che non sono poi così affidabili, o che hanno commesso magari anche in questo regime di protezione qualche sciocchezza o qualche piccolo atto, diciamo così, delinquenziale. Insomma, c'è chi dice: ma se escono tutto sommato è perché non sono poi così attendibili. Lei che cosa replica a queste critiche? No, io ritengo che la fuoriuscita dal programma di protezione è un diritto prima di ogni altra, più che una punizione, è un diritto nel senso che è previsto dalla legge, perché questa gente non può stare sempre sotto protezione. Ovviamente a volte capita che queste persone abbiano una delibera di revoca del programma di protezione, o per una violazione comportamentale o per la commissione di un reato, cosa molto più grave, che ovviamente ha come conseguenza immediata, subitanea, la revoca del programma. E allora lì chiaramente non bisogna avere pietà, voglio dire, concorderà con me che... Ecco. Sicuramente, infatti ho avuto anche delle persone, ho seguito delle persone che sono, come dire, nuovamente ricapitate nel crimine, e quindi in quel caso era giusto che non godessero più della protezione dello Stato, ma ci sono state anche persone che sono volontariamente fuoriusciti da un circuito di protezione perché non hanno trovato nello stesso le ragioni per continuare a vivere dignitosamente e decorosamente per tutti i problemi che le ho detto prima, fra tutti quello economico. Ed infatti noi andremo proprio ad affrontare queste tematiche, entreremo nel vivo di queste vicende che lei adesso raccontava e ci ricordava. Io la ringrazio, avvocato, per il suo intervento. Guardie o ladri? Bentornati all'ascolto, chi vi parla è Roberto Galullo. Stiamo affrontando il tema del pentitismo, lo faremo in tre puntate. Abbiamo ascoltato nella prima parte l'avvocato Conidi, in questa seconda parte ascolteremo la storia di un pentito di 'Ndrangheta e abbiamo detto che saranno tutte testimonianze di pentiti di 'Ndrangheta in queste tre settimane, che è fuoriuscito dal programma di protezione. Sentirete che la sua voce sarà artefatta. Questa persona ha un volto e un nome, ma noi per questioni di sicurezza e garanzie e incolumità di questa persona saremo costretti ad artefare la voce e anche a chiamarlo non col suo nome di battesimo, ma con un più generale e, come dire, anonimo Vittorio. Allora, il nostro Vittorio ha una quarantina d'anni, è stato soltanto un mese in un programma di protezione dello Stato in un hotel a Roma, dopodiché è stato riportato in Calabria e oggi si trova in Calabria senza alcuna protezione. Sentiamo la sua storia. Buonasera Vittorio. Buonasera, buonasera. Allora Vittorio, io ho detto che lei è rimasto soltanto un mese in regime di protezione. Ci racconti che cosa aveva denunciato? Perché mi avevano detto se collaboravo che mi davano la protezione, al massimo. Mi hanno detto così, io ci ho creduto, ho collaborato, ho fatto denunce. Dopodiché mi hanno subito portato a Roma. Che tipo di denunce ha fatto? Contro usurai e contro spacciatori di droga. E queste denunce le hanno portato, come dire, l'hanno portata, come dire, a contatto con lo Stato e lo Stato gli ha sostanzialmente detto: denuncia, mettiti dalla nostra parte. Sì, sì. Mettiti dalla parte della legalità e vedrai che qualcosa in cambio avrai. Invece è stato abbandonato. Beh, sì, sono proprio in mezzo alla strada. Queste persone, parenti di queste persone che io ho denunciato, quando mi vedono mi scherzano pure, ridono, hanno l'abilità di ridere e di scherzare. Diciamo ai nostri radioascoltatori, lei è tornato in Calabria, suppongo non con la sua volontà, ma contro la sua volontà. Sì, contro la mia volontà, è vero. Ecco, lei dove avrebbe voluto andare? In una regione del nord, all'estero? Cosa avrebbe voluto fare per rifarsi una vita? Guardi, io se fossi stato in una regione del nord avrei rifatto di nuovo la mia vita come prima e a livello lavorativo. Avrei ripreso il mio lavoro e sicuramente avrei fatto una vita molto diversa. Sono visto che mi hanno riportato in Calabria, ho detto per me è finita tutto. Ecco, può dirci che tipo di lavoro espletava o è, come dire, la mette a rischio anche questo di riconoscimento? Infatti, perché è un lavoro che non lo fanno tutti. E quindi è un po' particolare. Ma torniamo un secondo al suo mese di protezione. Essere stato lasciato in un hotel a Roma, che cosa significa? Ce lo traduca in pratica. Mi hanno detto che devo aspettare che il programma di protezione di Roma mi dessero il permesso poi di andare in una città sconosciuta. Invece poi che è successo? Mi hanno tenuto lì un mese in un albergo, sono arrivati due della polizia e mi hanno lasciato un foglio che dice che il programma di protezione non è stato accettato. Ha detto l'unica cosa che devi fare domani mattina ti riprendi la roba e te ne scendi. In Calabria. Mi scusi, lei è seguito da un avvocato o da un collegio di difesa? Vorrei cercare di capire da lei, Vittorio, perché il programma di protezione è stato rigettato? Veramente questo io non l'ho mai capito il perché. E il suo avvocato l'ha mai capito? Non lo so dire, perché non è... su questo discorso qua non abbiamo proprio parlato, il motivo perché. Semplicemente l'è stato rigettato. Allora, torna in Calabria. E allora torniamo all'attualità. Lavora? No, non faccio niente. E come si mantiene? Purtroppo c'è la mia compagna, con la sua attività, col suo guadagno cerchiamo di andare avanti. Ecco, quindi la sua compagna è un'attività, la sua compagna è, come dire, lei prima usava un termine dialettale, no? Diceva mi scherzano, che vuol dire la prendono in giro, traduciamolo per il resto d'Italia, no? Ecco, la sua compagna che tipo di vita fa? È una vita, una persona tranquillissima, è stata sempre una persona molto tranquilla, anzi mi ha accettato in questo modo, anche se per un periodo c'è stato un dubbio, anche lei non sapeva se doveva andare avanti o no. Ecco, Vittorio, lei ha una storia di, come dire, di delinquenza alle spalle, mi spiego, è una persona che ha una famiglia di 'ndrangheta, ha vissuto sempre di espedienti e malaffare, che tipo di persona è? Si descriva. No, io sono stata una persona che ha avuto delle amicizie, conoscenze in questo modo, che mi ci hanno messo nel mezzo. Poi mi sono trovato in delle situazioni che io purtroppo, essendo ignorante di materia, non capivo niente e mi sono trovato. Quindi diciamo così che lei comunque ha fatto affari con la criminalità organizzata? Sì, ci sono stati dei discorsi di affari, giustamente, e io non li capivo. E per questo li ha pagato e li sta pagando? Sì, è vero. Ecco, veniamo all'oggi di una persona che è, come dire, definito un pentito, esce dal programma di protezione, ci entra come una porta girevole, non sappiamo nemmeno come definire la sua protezione. Lei sa perfettamente che un pentito in terra di Calabria o di Sicilia o in Campania ha, come dire, l'altra faccia della medaglia, viene considerato dalle cosche, dalle 'ndrine, dai clan un infame. Questo lei ce lo conferma, no? Sì, posso confermare, anche perché è passato l'altro giorno uno sulla moto, davanti qua, dove siamo noi, sì. Con la moto, mi ha guardato in faccia e mi ha sputato alla porta qui del lavoro della mia compagna. Ecco, ma le sputa in faccia soltanto chi fa parte della criminalità organizzata o anche della gente comune dalla quale lei magari non si aspetterebbe certi gesti? Anche da loro ho visto tanta indifferenza. Perché diciamo così che c'è chi sputa effettivamente con la bocca, c'è invece chi lo fa col pensiero. Sì. Ecco. Sì. Vittorio, le chiedo una cosa, ma lei ha paura oppure pensa che la sua punizione sia proprio quella di essere un reietto nella società in cui vive? No, io ho molto paura, veramente. Ha paura di che cosa? Che mi possono fare fuori dall'alloggio domani. Ma questo perché lei ha altre cose che può e deve raccontare oppure proprio perché quello che lei ha già raccontato è già abbastanza perché la facciano fuori? Sì, quello che ho raccontato è basta e avanza, veramente. Avanza pure. Senta, ma lei non ha più poi pensato di rivolgersi ancora alle forze dell'ordine, alla magistratura? A me fa piacere che lei si sia rivolto a noi e che noi possiamo, come dire, affrontare in questa trasmissione uno dei temi cruciali, vale a dire quello della collaborazione con la giustizia. Ma c'è lo Stato, lei lo sente lo Stato oppure per lei rappresenta semplicemente una parola vuota? Io dello Stato sento solo una virgola, cioè la virgola sarebbe questa delle forze dell'ordine dove abito io. Sì. Che mi dicono sempre, mi chiamano e mi dicono come stai, come non stai, e se c'è qualcosa chiamaci, questa è la virgola che io sento, basta, di altro non sento niente. Certo, se c'è qualcosa chiama poi magari potrebbe anche non fare in tempo a chiamare, no? Sì, ma se vuole qualcuno viene, ti spari in testa, tu non hai il tempo neanche di chiamare a nessuno, non chiamerai sicuramente a nessuno. Assolutamente, Vittorio, lei ha figli? Sì. E i suoi figli come vivono questa situazione? Sono piccoli, grandi, insomma hanno il tempo di... Sono piccoli e vivono peggio di me, perché stanno in una zona dove la delinquenza è proprio la casa. Senta, ma non ha mai pensato di prendere per conto suo valigia, baracca e burattini e andarsene via e scomparire per sempre insieme alla sua famiglia? Io l'ho pensato e lo sto pensando, perché voglio mettere qualche soldino da parte e andarmene. Senta, dovesse rivolgersi agli uomini delle cosche del suo paese, che cosa gli direbbe? Non di certo mi rivolgerò più. E allo Stato si rivolgerà ancora? Sì, perché io credo nello Stato, me ci ha fatto credere dall'inizio, però forse sono rimasto illuso e questa illusione vorrei che scomparisse. Ecco, io spero che questa puntata e l'altra che dedicherò a questo tema, anzi alle altre che dedicherò a questo tema, non è la prima volta che ne parliamo, serva un po' per smuovere le acque. Ovviamente sono a disposizione delle forze dell'ordine, della magistratura, del Ministero dell'Interno, per dire separatamente il nome e il cognome di questa persona che noi abbiamo chiamato Vittorio, ma che in realtà ha appunto un volto, una storia tragica, e soprattutto, come avete ascoltato, cari radioascoltatori, la volontà di collaborare con la legalità. Vittorio, la ringrazio di questa sua testimonianza, le auguro buona fortuna. Grazie a lei, grazie tantissimo, grazie. Speriamo di risentirci presto e speriamo che lei possa anche dire il suo nome e il suo cognome. Benissimo, sì, come no. Bene, la prima puntata dedicata al mondo dei pentiti si avvia a conclusione. Torneremo la prossima settimana con la voce di un magistrato e un'altra storia di un pentito raccontata attraverso la sua viva voce. Io ringrazio in regia Giacomo Spunta e in studio Laura Faggini e Roberto Galullo vi dà appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Guardie o Ladri. Per le informazioni sul traffico, prima di tornare da voi con la prima storia di un pentito. Nel frattempo colgo l'occasione per ricordarvi l'indirizzo mail al quale scrivere guardioladri@radio24.it e il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com.